L'ottavo giorno, a cura di Emiliano Enrico. Benvenuti alla puntata della vigilia di Pasqua dell'ottavo giorno, quindi vi faccio già gli auguri, poi li farò anche naturalmente a fine puntata che sarà in buona parte dedicata alle elezioni regionali di domenica e lunedì, sono indubbiamente il fatto della settimana. Cominciamo dai numeri che non sono un'opinione o non dovrebbero essere un'opinione, perché si partiva da una condizione di 11 regioni a 2 controllate dal centro-sinistra. Ora il margine, dopo i risultati di lunedì sera e di lunedì notte, si è assottigliato. Il centro-sinistra governa 7 regioni, il centro-destra è passato a 6. Poi però bisogna dire che nell'interpretazione di questi risultati si è detto un po' tutto, l'interpretazione stessa è stata piuttosto libera, a volte, permettetemi, anche surreale. Nessuno di fatto ha ammesso di aver perso, o perlomeno non l'ha ammesso in maniera chiara e emblematica. Bersani ha fatto dei ragionamenti anche un po' arzigogolati per spiegare che il PD ha comunque tenuto e non è andato così male. Io invece cerco di parlare chiaro, esprimo subito la mia opinione e voglio sintetizzare per titoli, forse anche un po' brutali, quello che è successo nelle regionali 2010, e quindi se dovessi fare dei titoli direi che Bossi ha stravinto, Berlusconi ha vinto o comunque non ha perso, come per esempio Travaglio giovedì anno zero ha detto. Fini non si può certo dire che abbia perso, perché comunque ha fatto valere il suo peso, la sua influenza in Calabria e Campania, regioni che sono passate da sinistra a destra, però forse nel Lazio deve ringraziare qualcun altro per la vittoria. E poi c'è il PD Bersani che ha perso o forse addirittura straperso. Naturalmente vi lascio riflettere su queste mie considerazioni, vi invito a dire la vostra, soprattutto se non la pensate come me, scrivendoci all'ottavo giorno @radio24.it. Intanto ci ascoltiamo due servizi di analisi un po' più a freddo nel corso della settimana su due aspetti fondamentali di queste elezioni, cioè il trionfo della Lega e le difficoltà del PD. Prima Simone Spezia e poi Cristina Carpinelli. Sorpassa il PDL in Veneto, mette la freccia in Lombardia dove i due partiti sono separati da un 4%, ottiene la presidenza del Piemonte. La Lega, vera mattatrice di queste elezioni, fa ben di più. Piazza consiglieri nelle regioni tradizionalmente rosse che, Emilia Romagna a parte, sono in centro Italia. Enzo Marangoni di Recanati è uno dei due deputati regionali marchigiani del Carroccio. Tutti i parametri anche sociali fanno sì che le Marche siano assimilabili più alle regioni del nord, anche per il tipo di economia. Fanno sì che la regione Marche sia una delle 8 regioni che danno a Roma più soldi rispetto a quello che ricevono. Un fenomeno abbastanza nuovo, ma già Paolo Stefanini, giornalista, lo ha ben descritto nel suo recente libro Avanti Po, edito dal Saggiatore. Risiede probabilmente nella crisi economica attuale e nella risposta che ha saputo dare la Lega, che stavolta ha puntato molto di più che sul tema della sicurezza, intesa come lo scippo o la rapina in villa, sul tema della sicurezza sociale, portando al massimo livello una specie di welfare state in salsa leghista. Gli italiani devono venire prima di tutti gli altri. Claudio Morganti, da Prato, eurodeputato, fa parte dei 3 eletti toscani. Famiglia d'origine, spiega, tutta di sinistra. Ed è proprio a sinistra, sembra dire, che il Carroccio ha sfondato. Una fabbrica come la definizione Santo Stefano di Prato, storicamente di sinistra, insomma, in questa campagna elettorale ha aperto le porte alla Lega Nord. Un esempio che dalle parti del Partito Democratico dovrebbe o potrebbe dare molti elementi di riflessione. Beppe Grillo, in Piemonte, è voto di protesta della protesta, e cioè rappresentativo di quell'elettorato che avrebbe votato Italia dei Valori se questo non fosse entrato nel PD. Il voto della Lega è un voto di protesta contro Berlusconi, ha detto Bersani. E Gramellini, sulla prima pagina della Stampa, ha detto ieri che nessuno ha avuto il coraggio di chiedere a Bersani perché gli avversari di Berlusconi avessero votato per il suo alleato invece che per il PD. Perché? Cosa manca al PD? Andrea Scano, del Partito Democratico. C'è stata, a nostro avviso, una certa mollezza, sia nell'esercizio dell'attività di opposizione, laddove siamo all'opposizione, sia anche nello svolgimento delle attività di governo, laddove siamo in maggioranza. Dovremmo essere la pietra d'inciampo, intesa come manifestazione di un'alterità rispetto ad una politica fatta soltanto di abbuffate e di potere. E invece questo non sempre accade. Non sempre accade. Quando, per usare le parole di Scano, il PD diventa pietra d'inciampo, allora però si hanno le performance ottime di Nichi Vendola. E ancora, come dice Concita De Gregorio, non è questione d'essere partito pesante o leggero, ma partito che parla alla sua gente, e la sua gente è anche l'elettorato giovane. Il partito deve essere pesante e leggero insieme, deve essere dappertutto, deve essere anche capace di parlare con un linguaggio nuovo. I ragazzi che hanno meno di 20-25 anni, non ci si può rivolgere a loro con un tono e un linguaggio da comitato centrale. La rete, internet, il popolo viola è un mondo che anche generazionalmente è diverso da quello. L'ottavo giorno. Nel frattempo mi ha raggiunto in studio Stefano Folli, editorialista del Sole 24 Ore. Buongiorno Stefano. Buongiorno. Naturalmente siamo qui per discutere della notizia, del fatto della settimana, ovvero i risultati elettorali delle regionali di domenica e lunedì. Io vorrei partire da un aneddoto magari marginale, ma che secondo me è abbastanza significativo, che ci riguarda, perché noi più o meno una settimana fa, insomma pochi giorni prima del voto, ci siamo incrociati qui nei corridoi della radio e ci siamo detti: se finisce 7-6... vuol dire che nessuno avrà capito nulla di queste regionali, ed è finito 7-6. Quindi a posteriori, che ricordai di quei giorni, di quelle attese, e poi come dobbiamo commentare appunto questo risultato sorprendente? No, ma l'impressione di molti, in parte anche la mia, era che la Lega fosse sicuramente molto forte, ma non abbastanza forte da vincere anche in Piemonte. Gli stessi leghisti con cui avevo parlato non erano così sicuri di farcela in Piemonte. Poi obiettivamente la capacità di Berlusconi di riprendere in mano i fili di una situazione che poteva sembrare abbastanza compromessa un mese fa, due mesi fa, si sono rivelate queste capacità ancora una volta notevoli. Al di là dell'analisi dei voti, quanti voti ha perso la lista del PDL, resta il fatto che queste elezioni sono vinte politicamente da Berlusconi e materialmente dalla Lega, che adesso nella maggioranza ha un peso specifico molto forte. Quindi adesso ti vorrei chiedere di così commentare quelli che sono stati i miei titoli di apertura del programma. Io, sintetizzando, visto che di fatto poi nei giorni seguenti al voto abbiamo visto diverse letture del voto stesso, per esempio anche giovedì Santoro in anno zero ha imbottito di dati, di statistiche, di risultati parziali la puntata, volendoci dimostrare che Berlusconi non ha vinto queste elezioni. Io invece ho brutalmente detto: Bossi ha stravinto, Berlusconi ha vinto, Fini ha pareggiato, perché pur sempre nel Lazio deve forse ringraziare Berlusconi per il successo alla fine della Polverini, e Bersani ha perso. Quindi da questi punti credo che non si debba uscire, non si possa uscire. Se io fossi Berlusconi sarei pronto a firmare per altre 100 di queste sconfitte. Insomma, guadagnare 4 regioni, tra l'altro anche importanti, non è, è non chiaro. E naturalmente invece per il centrosinistra io credo che si debba prendere atto con serenità e con determinazione di una situazione difficile in cui le liste dell'opposizione non sono andate bene, evidentemente. Ma non hanno nemmeno subito un tracollo tale da impedire qualsiasi speranza. Insomma, l'opposizione non è stata cancellata, l'opposizione semmai si è una volta di più disarticolata, no? Perché è emerso questo fenomeno delle liste di Beppe Grillo che non era stato previsto, ha preso un po' in contropiede gli stessi vertici del Partito Democratico. Grillo che ha preso il 6% in Emilia, ma soprattutto un 3% in Piemonte. Io ero in Piemonte per seguire la campagna elettorale. E io sono della scuola di quelli che credono che questo 3% di Grillo abbia inciso profondamente sul voto finale, quindi abbia fatto perdere la Bresso. Non so se tu sei d'accordo su questo. Beh, i dati sono espliciti al riguardo. Naturalmente questo non significa che la Bresso ha perso per causa di Beppe Grillo e quindi Beppe Grillo non doveva presentarsi, no? È un'interpretazione che è un po' è circolata negli ambienti del Partito Democratico. No, i partiti hanno tutti, i partiti o i movimenti, in questo caso il movimento, hanno tutti pieno diritto di partecipare al mercato elettorale. Semmai il problema del Partito Democratico che non ha abbastanza appeal, no? Non è abbastanza interessante e coinvolgente per evitare che la gente o se ne sta a casa, perché l'astensione naturalmente è l'altro dato formidabile di queste elezioni. Credo sia il primo partito, volendo. In un certo senso sì. Quello degli astensionisti. Oppure non è capace di attirare i voti rispetto a una lista così un po' raccogliticcia, messa insieme all'ultimo momento da un partito che non è un partito ma semplicemente un movimento che segue un personaggio suggestivo, ma insomma che ha un suo percorso che non c'entra niente con la politica. Quindi tutto questo si traduce non in un anatema contro le liste di Grillo, ma dovrebbe tradursi in una riflessione molto amara sulla mancata capacità di attrazione del Partito Democratico, cosa che mi sembra che Bersani onestamente sta facendo. Veniamo invece alla maggioranza, perché proiettiamoci nel futuro. Questo voto che scenari apre secondo te? Governo rafforzato oppure nuovi dualismi dentro la maggioranza? Tu addirittura in un pezzo hai parlato di un possibile presidente del Consiglio ombra, ovvero Bossi con il piede sull'acceleratore, soprattutto delle riforme che fanno comodo a lui. Ma Bossi e la Lega sono un partito che vive per fare delle riforme. Naturalmente loro le declinano in un modo che è discutibile, perché vedono soltanto l'interesse del loro territorio, cioè del nord, però l'esigenza di riformare il sistema è proprio connaturata alla loro essenza di partito nato per questo. A partire dalla riforma delle riforme, cioè per loro il federalismo. Certo, federalismo fiscale. E allora il fatto che oggi la Lega sia così forte rispetto anche a un PDL che è uscito abbastanza bene da queste elezioni, ma non così bene, no? Perché ha perso in tante aree, perché si è meridionalizzato rispetto al nord occupato appunto dai leghisti. Allora tutto questo determina una condizione per cui le riforme adesso vanno veramente fatte. Non riesco a vedere Bossi che se ne sta 3 anni fino alla fine della legislatura con le mani in mano. Lui ha bisogno di portare a casa dei risultati chiari. Ora, se si parla di federalismo, si parla di qualcosa che ha un effetto molto importante sugli assetti generali del nostro paese. Il federalismo si porta dietro tutta una serie di altre riforme che riguardano le nostre istituzioni. Quindi, però o è una riforma condivisa anche con l'opposizione oppure si arriva da nessuna parte. Ma siccome il primo a saperlo è Bossi, che è un uomo che su questo terreno è abbastanza saggio, mi sembra, l'ha sempre dimostrato, e ha un senso della politica piuttosto raffinato nonostante le apparenze, io penso che lui molto più di quanto non abbia nelle sue caratteristiche politiche Berlusconi, molto di più Bossi cercherà un confronto con l'opposizione. Poi naturalmente ci sono fenomeni tipo la questione della pillola abortiva che sono così, lasciano perplessi, danno l'idea di una Lega che non ha misurato bene le sue mosse, perché insomma mi pare curioso che due governatori appena eletti vogliano infrangere una legge dello Stato. Però francamente non mi sorprendono troppo le uscite dei due governatori, cioè mi sarei sorpreso per una decisione opposta rispetto a quella che hanno indicato in questi giorni. Però vediamo che cosa succederà nei prossimi giorni. Visto che hai indicato la RU486 come già il primo elemento incendiario forse del post elezioni, riascoltiamo proprio sulle scelte leghiste di questi giorni il servizio di ieri mattina di Paolo Panceri. La prima mossa post-elettorale della Lega è attaccare la pillola RU486 proprio nel giorno di avvio della sua distribuzione in Italia. Le ostilità erano state aperte l'altro giorno dal neogovernatore del Piemonte, Roberto Cota, che ieri ha rincarato la dose. Per prima cosa chiedo ai direttori generali delle ASL di bloccare l'impiego della RU486 in attesa della mia entrata in carica. A suo fianco si è schierato ieri anche il neoeletto presidente veneto del Carroccio, Luca Zaia. La regione comunque ha delle competenze ben chiare rispetto alla salute e alla sanità e le vuole esercitare in Veneto fino in fondo. Apprezzamento per le dichiarazioni leghiste arriva da Monsignor Rino Fisichella, presidente della Pontificia Accademia per la Vita. Più sfumati invece i toni dei governatori del PDL. Per Renata Polverini, neopresidente del Lazio, c'è una legge, la 194, che va rispettata. Per Stefano Caldoro della Campania e Giuseppe Scopelliti della Calabria, la pillola abortiva deve essere prevista in regime di ricovero. Dall'opposizione, Pierluigi Bersani del PD ribatte, Cota e Zaia non hanno in testa una corona da imperatore. Le parole dei governatori del Carroccio dividono anche i medici. Il discorso sulla pillola abortiva mi permette anche una deviazione verso quello che è stato il ruolo della Chiesa. Insomma, nei giorni precedenti al voto abbiamo assistito ad una uscita piuttosto forte e veemente di Bagnasco, che invitava a votare seguendo certi principi, certi valori. La Chiesa, brevemente a tuo giudizio, ha spezzato e ha spostato dei voti? Un po' sì, io penso. Queste uscite erano molto forti. Naturalmente il peso della Chiesa in termini elettorali oggi non è paragonabile neanche lontanamente a quello che era anni fa, però indubbiamente un'uscita così forte alla vigilia del voto, qualcosa ha spostato evidentemente. Poi mi stupisce un po', francamente, che la Chiesa dia un sostegno così, così forte alle posizioni leghiste in termini, appunto, in relazione alla pillola abortiva. Mi sembra anche qui una certa novità rispetto a un rapporto che la Chiesa ha sempre avuto con la politica, più equilibrato, più attento, diciamo, a quelli che sono anche, diciamo, i limiti istituzionali di posizioni che non possono, appunto, arrivare fino a diciamo, non rispettare le leggi dello Stato. Abbiamo ancora un minuto che vorrei spendere per il centro-sinistra, per l'opposizione. A tuo giudizio, quale sarà adesso la strada che deve intraprendere o che intraprenderà comunque Bersani? L'alleanza plausibile, qual è quella con l'UDC, con l'Italia dei Valori, con entrambi? Penso che in questo momento non si debba neanche troppo parlare di alleanze, perché è troppo prematuro, perché la situazione è un po' troppo sfilacciata. Io penso che si debba assolutamente rilanciare le posizioni, le proposte dell'opposizione proprio al tavolo delle riforme, visto che si sta parlando di riforme e che queste riforme devono essere fatte il più possibile in un modo concordato tra maggioranza e opposizione. Quindi mi aspetto che il Partito Democratico sia molto attivo al tavolo delle riforme, non soltanto chiuso in un modo un po' impacciato in una visione conservatrice dell'assetto istituzionale. Debba sfidare la controparte, la Lega, il Popolo della Libertà sul terreno proprio delle proposte concrete, senza paure, senza timori reverenziali. Questo mi pare la prima cosa da fare. La seconda cosa, io sono dell'idea che debba mettere in campo il più presto possibile una figura che indicherà come il candidato alla presidenza del Consiglio quando si andrà a votare. Su questo, per esempio, uno dei motivi che ha per sorridere il PD è sicuramente, al di là poi di certi risultati delle amministrative, come per esempio la debacle di Brunetta, ministro a Venezia, è il successo di Vendola in Puglia. A tuo avviso, quello di Vendola, su cui tra l'altro c'è anche un'attenzione dei media, insomma anche un gusto retorico forse nel raccontare la favola, la parabola di Vendola, secondo te Vendola è un modello esportabile fuori dai confini della Puglia per un PD o comunque un centrosinistra del futuro? Ma io penso che il successo di Vendola dipende innanzitutto dal suo modo di raccontare la politica, di raccontare la sua battaglia politica in un modo accattivante. È una figura da questo punto di vista interessante e anche nuova. Poi dipende dal fatto che con la sua stessa storia Vendola rappresenta qualcosa di diverso da questo Partito Democratico effettivamente un po' stantio, no? E quindi dà un'immagine di freschezza che piace all'opinione pubblica. Da questo dire che Vendola può essere il candidato alla presidenza del Consiglio in grado di fare tutta la differenza e di raccogliere quei milioni di voti che mancano al centro-sinistra per poter essere maggioranza nel paese, questo francamente non sono in grado oggi di dirlo. Grazie a Stefano Folli per l'analisi sulle regionali dei giorni scorsi. L'ottavo giorno. A Mosca, nella metropolitana, c'è stata una forte esplosione seguita da una seconda e si parla già di 25 vittime. Lunedì mattina, mentre l'Italia è ancora alle prese con il voto per le regionali, Mosca è sconvolta da due esplosioni nella metropolitana, a brevissima distanza l'una dall'altra. Il bilancio finale dell'attentato sale rapidamente, ieri ha raggiunto purtroppo la soglia delle 40 vittime. Riascoltiamo allora la cronaca di questo 29 marzo che sicuramente i russi e i moscoviti ricorderanno purtroppo a lungo, con Sergio Nava. Vadim Mig, жизнь города изменилась. Il primo attacco si consuma quando non sono ancora le 8 del mattino locali. A venire presa di mira è la stazione metro della Lubianca, una sfida aperta al potere, sia politico che della sicurezza. La stazione si trova infatti a poche centinaia di metri dal Cremlino ed è praticamente dirimpettaia della sede dell'FSB, erede del potente KGB. 40 minuti dopo, l'altra esplosione a Parkulturi, nei pressi di Gorky Park. Mosca precipita immediatamente nel panico, con scene che ricordano gli attentati ai trasporti di Madrid e Londra, carrozze della metropolitana sventrate, feriti e vittime appoggiati nei lunghi corridoi sotterranei dove si tentano rianimazioni disperate, traffico bloccato intorno alle fermate colpite. Poche ore dopo i servizi segreti, obiettivo simbolico dell'azione, indicano già una pista. Per il capo dell'FSB Aleksandr Bortnikov, responsabile dell'azione sarebbe un gruppo terroristico legato al Caucaso del Nord, ad agire due giovani donne kamikaze insieme ad altrettante complici dell'aspetto jugoslavo ora ricercate, con loro pure un uomo di cui la polizia avrebbe l'identikit. Il presidente Medvedev e il premier Putin promettono una lotta senza quartiere agli attentatori, in serata la dura condanna dei ministri degli esteri della G8. Il servizio di Sergio Nava era in onda martedì mattina, quindi ci sono inevitabilmente degli aggiornamenti nelle indagini, magari tra pochi minuti ne parleremo. Nel frattempo ci ha raggiunto al telefono in collegamento da Mosca Antonella Scott, l'inviata del Sole 24 Ore. Buongiorno Antonella. Buongiorno a voi. Allora Antonella, prima di tuffarci nell'analisi politica anche dell'attentato, ieri ho letto sono state identificate le due donne kamikaze accusate del terribile attentato, vorrei da te sentire prima di tutto il lato, se vogliamo, emotivo, persino irrazionale degli attentati. Vorrei capire come Mosca ha accolto e ha vissuto questi giorni, ha accolto la notizia dell'attentato e ha vissuto questi giorni sicuramente concitati. Sì, da una parte con grande calma il giorno stesso dell'attentato le persone hanno cercato di reagire. Una cosa che ha colpito molte è stata la metropolitana che dopo poche ore ha subito ripreso a funzionare. C'è però un senso di psicosi collettiva, di paura che resta soprattutto in questi giorni in vista della Pasqua. Si teme che ci possano essere nuovi attentati e quindi sono state rafforzate le misure di sicurezza, perché quest'anno la Pasqua, vi ricordo, la Pasqua ortodossa coincide con la nostra Pasqua e ci saranno migliaia di uomini delle forze dell'ordine a presidiare, in particolare treni, aeroporti, sistemi di trasporto, naturalmente la metropolitana, dove c'è un'atmosfera strana, di grande dolore. In particolare le due stazioni che sono state colpite dagli attentati, Lubianca e Parkulturi, sono diventate dei veri e propri altari al ricordo delle vittime, ci sono montagne di fiori, è bello vedere la partecipazione di tanti giovani, è facilissimo incontrare nel metrò dei ragazzi con due garofani in mano e si sa che li stanno per portare in queste stazioni. C'è però anche tanta paura, tanta gente che non se la sente ancora di tornare a prendere il metrò, anche se poi le alternative, soprattutto per certe persone, non ce ne sono. Non ce n'è. Soprattutto poi pensando anche al traffico terribile che impedisce a chiunque, se uno vuole arrivare in orario in un posto non è possibile pensare di prendere la macchina. E però anche un grande clima di sospetto, di persone che quando salgono sul treno del metrò si guardano intorno, e poi questo è il lato più negativo di questa situazione, sospetti nei confronti di immigrati, persone dall'aspetto caucasico, e infatti capita spesso di vedere i poliziotti che sono stati dislocati nelle stazioni del metrò a perquisire, a controllare l'eventuale presenza di esplosivi, fermano soltanto persone con un certo aspetto. Quindi possiamo dire una città con il fiato sospeso, insomma, per una paura comprensibile. Io vorrei, Antonella, che tu rapidamente spiegassi ai nostri ascoltatori che cosa rappresenta per i moscoviti la metropolitana, perché non è naturalmente un semplice mezzo di trasporto, ma è un monumento, se vogliamo, non a cielo aperto ma sotterraneo, quindi un simbolo della città. Bisogna immaginare che la metropolitana di Mosca è un sistema, tra l'altro, efficientissimo, che trasporta può arrivare a 9 milioni di passeggeri al giorno. È una rete intricatissima di diverse linee che però sono molto efficienti sia nei tempi che è molto difficile perdersi, al di là del fatto che le scritte sono in cirillico per noi, quindi è un po' più difficile per questo, ma è veramente molto efficiente e non ci sono mai non passano mai più di 2-3 minuti tra un treno e l'altro, però malgrado questo, proprio sta in questi 2 o 3 minuti la banchina del metrò si riempie immediatamente di folla, per questo per dirvi quante sono le persone che soprattutto nell'ora di punta che se ne servono, e quindi quanto è stato spaventoso il momento dell'esplosione in mezzo a così tanta gente. Hanno veramente voluto colpire il più possibile, uccidere il più possibile. Ecco Antonella, non c'è dubbio che gli attentati hanno riportato alla ribalta la questione caucasica, quindi andiamo in una regione davvero complicata, difficile da decifrare, in particolare c'è tutta la questione cecena che è ancora aperta, una questione che di fatto si trascina da quando è tramontata l'Unione Sovietica e che, se vogliamo, assilla Putin da quando è salito al potere e non viene ancora risolta. Come stanno realmente le cose nel Caucaso, in Cecenia, e qual è appunto il nesso tra gli attentati di cui stiamo raccontando le conseguenze e proprio la questione cecena? Ma possiamo ritornare proprio dalle persone nel metro di Mosca che si chiedevano come mai ci avevano detto che nel Caucaso la situazione si era risolta. Infatti noi ricordiamo l'aprile scorso del 2009, Putin annunciò che qui la chiamano operazione controterrorismo, in realtà è la guerra in Cecenia. Lui annunciò che la guerra era conclusa e affidò la responsabilità, il controllo della situazione a Ramzan Kadyrov, appunto il presidente della Cecenia. Ramzan Kadyrov usa il pugno di ferro contro i guerriglieri e in qualche modo quindi sono stati uccisi diversi capi della guerriglia e che si è un po' dovuta come ridislocare nelle repubbliche vicine, nell'Inguscezia, ma in particolare in questi giorni vediamo il Dagestan. Infatti è nel Dagestan che da cui sembra che siano partite le due kamikaze, le due donne che hanno innescato gli attentati di Mosca, e in Dagestan 2 giorni dopo gli attentati di Mosca se ne sono verificati altri, una doppia esplosione. Questo proprio per dire che adesso è il Dagestan in particolare che porta il peso di questa guerriglia che in qualche modo ha ridichiarato, è tornata a dichiarare guerra in particolare a Putin, perché una cosa curiosa è che nella rivendicazione, il video che è stato diffuso del presunto capo della guerriglia, Dokumarov, viene sempre nominato Putin ma mai Medvedev, che invece è quello che in qualche modo sta dando un po' la linea alla reazione dello Stato. Ma c'è una differenza tra i due, scusami Antonella, tra Putin e Medvedev in queste ore? Sì, infatti il grosso interrogativo è questo: quanto potrà durare, diciamo, la linea Medvedev, che usa le stesse parole di Putin quando dice che bisogna distruggere i terroristi. Questo è ovvio, immagino sia lo stesso tipo di linguaggio che usa qualunque paese che ha a che fare col terrorismo. Ma a differenza di Putin, Medvedev continua a mettere l'accento su quella che lui ritiene sia la soluzione vera del problema in Cecenia, e cioè in Cecenia e nelle repubbliche vicine, cercare di dare una vita migliore alle persone che ci abitano, quindi cercare di aiutare, incoraggiare lo sviluppo, di eliminare la povertà, e poi anche speriamo che questa sia veramente una cosa su cui terrà duro, la lotta alla corruzione, che poi permette anche che crea le condizioni perché ci siano gli attentati, perché gli attentatori possano prendere e andare a Mosca. Ed è una cosa su cui mi ha proprio colpito il fatto che fin dal primo giorno, il giorno in cui uno si aspetterebbe solo rabbia e reazione da parte dello Stato, ha subito messo l'accento sulla stiamo attenti perché i diritti umani non vengano violati. Grazie ad Antonella Scotta anche per questa interessante analisi sulle differenze di atteggiamento e di iniziative di Medvedev rispetto a Putin. Tra l'altro Medvedev la prossima settimana sarà a Praga con Obama, atteso per firmare l'accordo sulla riduzione delle testate nucleari. E su questo vogliamo chiudere questa parte dedicata in fondo agli esteri con una notazione su Obama, perché è stata una settimana, come ormai tutte quelle da quando è presidente americano, molto intensa. Per esempio mercoledì ha annunciato il via libera alle trivellazioni di petrolio cosiddette offshore, cioè che sono in mare aperto, e la distanza che verrà colmata da queste trivellazioni è ampissima, perché si va dal Golfo del Messico all'Artico, e se vogliamo è una svolta straordinaria, incredibile, da parte soprattutto di un presidente americano democratico, perché neanche Bush, che è repubblicano, aveva attuato questo piano, ed in fondo Obama, insomma, sta facendo quello che in campagna elettorale promettevano McCain e la Palin, cioè i suoi avversari, verso la Casa Bianca. In sostanza si liberano dopo 30 anni di moratoria 150 milioni di ettari di acque nelle quali si potranno fare trivellazioni di petrolio. Gli ambientalisti naturalmente sono già sul piede di guerra, soprattutto ci sono state dichiarazioni di fuoco di Al Gore, ma questo è in fondo il pragmatismo di Obama, che di fatto è venuto incontro alle richieste dei repubblicani per avere in cambio un loro appoggio invece su un'altra sua iniziativa, cioè il piano di riduzione dei gas serra. E questo pragmatismo lo ritroviamo anche sui caldissimi fronti di guerra nei quali purtroppo è coinvolto Obama. Ieri per esempio ha alzato il tiro ancora una volta sull'Iran, mentre domenica ha fatto un blitz a sorpresa in Afghanistan, come ci racconta in questo servizio da Washington Luciano Clerico. Forte della vittoria ottenuta sulla riforma sanitaria, Barack Obama vuole cercare di mettere ordine anche nella più scomoda e difficile delle sue sfide politiche, l'Afghanistan. Per questo, mentre tutto il mondo lo sapeva a riposo a Camp David, il presidente americano è comparso a sorpresa a Kabul per incontrarsi con il presidente Karzai e, come comunicato dalla stessa Casa Bianca, parlare di chiaro. Gli Stati Uniti non sono affatto soddisfatti di come il governo afghano si sta muovendo. Obama si aspetta molto, molto di più dal secondo mandato di Hamid Karzai. Vuole risultati concreti in aree precise e a suo tempo concordate, i cosiddetti benchmarks, lotta alla corruzione, uomini preparati e seri nei punti chiave del governo, azioni di contrasto visibili contro il narcotraffico, che è la vera fonte di finanziamento dei ribelli. Sappia, Karzai, che le risposte finora venute da Kabul sono state insufficienti. Obama ha voluto andare a dirglielo di persona. L'obiettivo comune, tanto a Kabul quanto a Washington, è la riconciliazione afghana, ma per raggiungerlo è necessario che Karzai e tutto il suo governo tengano fede agli impegni presi. L'ottavo giorno. Ultima parte del programma, nella quale amo surfare, diciamo così, navigare su una serie di notizie che però questa volta devo dire sono decisamente meno importanti, meno significative delle due che sono state poi al centro della nostra discussione, ovvero il resoconto delle elezioni regionali e l'analisi dei terribili attentati che lunedì hanno sconvolto Mosca. Allora, prima di tutto apriamo ormai un file consueto nel nostro programma nell'ottavo giorno, ovvero quello legato allo scandalo pedofilia nella Chiesa. Ne parliamo ripetutamente da settimane, più volte abbiamo avuto anche ospiti con cui approfondire il tema. Ci sono novità praticamente ogni giorno, ad ogni ora. Le ultime le state anche ascoltando in queste ore nei GR della mattina di Radio 24 con gli ispettori che sono arrivati a Milano. Nel frattempo lo scandalo anche a livello internazionale si allarga, rimane sempre più ampio e naturalmente molto grave. Sentiamo i ragguagli con Sergio Nava nel GR delle 7 di ieri. Non accenna a placarsi lo scandalo pedofilia in Europa, con nuovi casi che stanno mettendo in seria difficoltà la Chiesa cattolica locale. In Francia un prete di Rouen, in Normandia, è stato incriminato per violenze sessuali su di un minore di 15 anni. Padre Jacques Gaimard, direttore dell'agenzia locale della Radio Cristiana di Francia, è accusato di fatti risalenti ai primi anni 90. Attualmente il religioso si trova in libertà vigilata, fermato nell'ambito della stessa indagine. Un altro parroco della diocesi a rivelare entrambi i casi alla stampa è stato l'arcivescovo locale. Il tutto mentre in Germania lo scandalo dei sacerdoti pedofili continua a occupare le prime pagine dei giornali. Nel suo primo giorno di attività, il telefono amico attivato dalla conferenza episcopale tedesca ha ricevuto ben 4.459 chiamate, superando ogni previsione. Per questo solo 162 hanno potuto ricevere ascolto. E nella bufera c'è anche il vescovo di Augusta, Walter Mixa. In un'intervista alla televisione pubblica ZDF, Mixa ha respinto con decisione le accuse relative al suo passato di parroco in Alta Baviera, dove avrebbe esercitato violenza contro i bambini. Bambini ora cresciuti che non hanno paura a ripetere le accuse loro stessi davanti alle telecamere. E veniamo allo sport, che non manca mai da queste parti, non manca mai nell'ottavo giorno. Qualcuno mi ha anche scritto, segnala che spesso lo sport risulta così una sorta di nota stonata rispetto magari al tono di altre notizie, però insomma voglio ricordare che noi siamo un contenitore che raccoglie tante notizie sparse un po' in tutta la settimana, e lo sport in fondo interessa molte persone ed è stabilmente sulle prime pagine dei giornali, quindi questa è la mia risposta a chi comunque garbatamente contesta le nostre scelte. E poi questa settimana, onestamente, per parlare di sport ci sono davvero tanti spunti. Torniamo per esempio a sabato scorso, perché si gioca a Roma all'Olimpico la sfida che forse sarà decisiva per il campionato di calcio italiano 2009-2010, Roma-Inter. Tutti o comunque molti di voi naturalmente, me compreso, sanno già com'è finita, però riviviamo le emozioni di quella partita con Giovanni Capuano. La resa dei conti dell'Olimpico non ha tradito le attese. Ha vinto la Roma 2-1 e ora il campionato è ben più che riaperto, perché al di là dei gol di De Rossi e Toni e degli episodi di un pessimo arbitraggio, i giallorossi hanno dimostrato di essere in ottima salute. Hanno sfissato l'Inter per un tempo come nessuno aveva mai fatto in Italia negli ultimi 3 anni e non si sono afflosciati nemmeno dopo essere stati raggiunti da Milito a metà ripresa. Una prova di forza forse in attesa in un girone Ranieri a recuperare. Recuperato 13 punti a Mourinho, che al contrario sembra avere la truppa con le pile un po' scariche ora che è arrivato il momento dello sprint. Ieri l'Inter è stata anche sfortunata, ha colpito 3 pali, tanti, ma ha anche fatto collezione di ammoniti, dimostrandosi fragile e nervosa. Contro il Bologna sabato le mancheranno Maicon, Lucio, Zanetti e Eto'o squalificati. Il calendario delle ultime 7 giornate regala alla Roma una lunga discesa con l'eccezione del derby. L'Inter deve ancora fare visita a Fiorentina e Lazio ed ospitare la Juventus, costretta a correre per non perdere il 4º posto, ancora più lontano dopo il 3-1 con cui ieri sera il Palermo ha battuto il Bologna. A rigor di logica e a rigor di numeri il campionato è comunque riaperto, l'Inter è sempre in testa ma la Roma incalza, incombe a 1 punto, il Milan è più indietro a -3, francamente mi sembra più sulle corde, però non si può davvero mai sapere, quindi corsa a 3 per lo scudetto. A Roma e nella capitale sicuramente ci credono, io lo sanno anche molti degli ascoltatori, vivo a Roma, quindi sento anche l'emozione, il delirio, anche se un po' mascherato, della parte romanista perlomeno della città. E comunque già oggi vedremo gli sviluppi di questa appassionante telenovela con le partite di questo turno che si anticipa al sabato, visto che domani è naturalmente Pasqua. Però per lo sport non c'è stato solo il calcio in questi giorni, per esempio domenica c'è stata anche la Formula 1 con il secondo gran premio della stagione. Questa volta non ha sorriso troppo alla Ferrari, come racconta questo servizio di Massimo Di Scienza di domenica mattina. A chi l'avesse dimenticato troppo in fretta, in Australia Jenson Button ha ricordato che in fondo il campione del mondo resta lui. Strategia azzeccata con un cambio gomma anticipato sotto la pioggia, guida decisa e McLaren affidabile al 100%. Tutta qui la ricetta per la vittoria ad Albert Park di un Button che ha anche approfittato dei consueti problemi della Red Bull di Vettel. Il tedesco ha dominato per 27 giri prima di abbandonare per un guasto ai freni. Button si è messo alle spalle la sorprendente Renault Low Cost di Kubica e le due Ferrari, Massa terzo, Alonso quarto, che si tengono stretto il risultato dopo i tanti problemi della gara. Se il brasiliano è stato in costante difficoltà con le gomme, Alonso subito in testa coda è stato costretto alla gran rimonta. Peccato l'incidente in partenza, mi ho trovato molto indietro, poi penso abbiamo fatto una gara molto molto solida, molto, molto buona, e abbiamo preso punti a tutti i nostri rivali, sia Hamilton, le due Red Bull, Michael, quindi dopo aver cominciato con un incidente la gara dopo di là è stata perfetta. Voti alti per l'arrembante Hamilton, sesto dopo il tamponamento di Webber mentre stava per passare Alonso, e per Liuzzi settimo ed ancora a punti. Un punticino lo porta a casa anche Schumacher, decimo, ma da lui ci si attende ben altro. Classifica piloti: Alonso 37, Massa 33, Button 31, costruttori Ferrari 70, McLaren 54. Il nostro flipper sulle notizie della settimana ci riporta a parlare di calcio. Mercoledì infatti è in programma la Champions League, perlomeno per quel che riguarda i colori italiani, perché l'Inter ospita a San Siro i russi del CSKA di Mosca. Molti danno la partita vinta ancora prima di essere giocata, però direi che la prudenza non è mai troppa, soprattutto quando si tratta di quarti di finale di una competizione comunque importante come la Champions. Infatti non ci sono praticamente squadre materasso in circolazione. La partita è ostica come aveva previsto Mourinho ed è vinta comunque dalla squadra di Mourinho, seppur di misura. Giovanni Capuano. L'Inter ha impiegato 1 ora per trovare la chiave e aprire la scatola del CSKA. 1 ora imbrigliata nella difesa ordinata e tenace dei russi, un monologo balbettante come si aspettava Mourinho, che i nerazzurri hanno sopportato con cinica pazienza. Poi, in meno di mezz'ora, hanno vinto la partita e legittimato un risultato che avrebbe potuto essere anche più pesante dell'1-0 che li scorterà martedì prossimo sul terreno sintetico di Mosca a caccia della qualificazione in semifinale. Ha deciso un rasoterra chirurgico di Milito al 20° della ripresa, a chi infeia Medvedev, portiere del CSKA, è stato il migliore dei suoi, bravo e fortunato sui tentativi insistiti di Pandev, Snyder, Eto'o, Cambiasso e Stankovic. Parate e salvataggi che tengono aperto il discorso anche per i russi, che a Mosca dovranno però fare a meno di Aldonin e Krasic, due uomini importanti, ammoniti e quindi squalificati. Ieri sera i 90 minuti sono stati un monologo, come aveva detto Mourinho. A Mosca l'Inter dovrà dimostrare la stessa cinica freddezza. Se l'Inter arriverà in semifinale dovrà affrontare la vincente di Barcellona-Arsenal, altro quarto di finale. L'andata spumeggiante a Londra ha visto un pirotecnico 2-2 alla fine, come si diceva una volta. Direi che il Barcellona, visto il risultato, è seriamente indiziato per andare in semifinale di Champions. Mi ha colpito una cosa nella cronaca di quella partita, cioè il cronista di Repubblica, se non sbaglio, ha contato 9 azioni da gol del Barcellona nei primi 18 minuti di gara, fate voi il conto, un'azione ogni 2 minuti, e non è arrivato per puro caso neanche un gol. Chiudiamo questa pagina sportiva e anche la carrellata di servizi della settimana dell'ottavo giorno parlando ancora di Inter, perché alla fine si arriva sempre a parlare di lui, ovvero di José Mourinho, l'amato, odiato allenatore nerazzurro. Giovedì ha fatto pace con Balotelli, una pace forse anche obbligata, viste le squalifiche con i quali deve fare i conti l'Inter per le prossime partite di campionato e non solo, e anche i risultati onestamente poco esaltanti nelle ultime apparizioni in campionato. Ci racconta tutto Dario Ricci. Una vigilia di Champions, quella dell'andata contro il Chelsea, li aveva divisi. Un'altra serata di Coppa, quella contro il CSKA a Mosca, li ha riavvicinati. Il disgelo tra Mourinho e Balotelli è cominciato negli spogliatoi di San Siro, con la visita di Super Mario ai compagni poco prima del fischio d'inizio della sfida poi vinta contro i russi. Visita apprezzata dal tecnico, che nel dopogara aveva dato timidi segnali d'apertura verso il giocatore. Mi è piaciuto aver Mario in spogliatoio dello stesso modo che mi è piaciuto aver Santon, che mi è piaciuto avere Motta, Lucio, tutti quelli che non giocano, sì, mi è piaciuto, sì. Poi l'incontro decisivo ad Appiano Gentile, con la mediazione del direttore sportivo Marco Branca e dell'altro dirigente Lele Oriali. Confronto a quattro occhi in cui Mario non ha chiesto scusa, ma in cui i due hanno chiarito le rispettive posizioni, firmando di fatto una tregua. «Voglio pensare al futuro e farmi trovare pronto per tornare in campo», ha spiegato poi Super Mario. Capiterà presto, magari già contro il Bologna. E allora occhi puntati oggi su Bari-Roma e Inter-Bologna per vedere cosa succederà di nuovo nel campionato di calcio. Siamo davvero alla fine. Ottavo giorno è radio24.it per chi ci vuole scrivere. Io ringrazio Alessandro Chiappini in regia e vi rinnovo l'appuntamento a sabato prossimo alle 9. Naturalmente buona Pasqua a tutti.